Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. È proprio vero che la mafia, controllando il territorio, impedisce all'ISIS di operare in Sicilia? Siamo sicuri che i terroristi islamici, temendo Cosa Nostra, non mettano piede nel sud Italia? Siamo andati a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove sembra sia successo l'esatto contrario, e cioè che mafia e presunti terroristi siano andati a braccetto facendo affari nel traffico di sostanze stupefacenti. Un esponente della famiglia mafiosa Santa Paola, guidata dal boss Nitto, avrebbe rifornito di droga Ben Brahim Tarak, 38 anni, tunisino, ritenuto legato a cellule insurrezionali jihadiste, arrestato ed espulso dalla Guardia di Finanza. Una delle più insulse chiacchiere da bar che è possibile ascoltare, riferendosi appunto alla situazione di pericolo di allarme internazionale riguardo al terrorismo islamico, è proprio questa. Noi in Italia stiamo sicuri, tanto abbiamo camorra, mafia, 'ndrangheta che controllano il territorio, non li faranno mai arrivare. L'ho sentito dire infinità di volte, chiacchiere in treno, chiacchiere per strada, chiacchiere di persone che radicalizzano ogni semplificazione della realtà. Noi stiamo tranquilli perché in Italia non faranno mai nulla, pertanto c'è la mafia. La mafia, da un certo punto di vista, tutti pronti a prendere le distanze, a dire che è un fenomeno terribile, qualcosa che non ci appartiene, ma è così intimamente intriso in noi il senso che comunque sia qualcuno che controlla il territorio, qualcuno che mantiene l'ordine, fa comodo a tutti, che passa l'idea che noi stiamo tranquilli perché c'è la mafia che ci difenderà dall'ISIS. Invece è esattamente il contrario. Qualcuno molto informato ai vertici dell'organizzazione che questo studia e questo contrasta oggi ci dirà esattamente il contrario. Avremo fra poco Franco Roberti, che è curatore nazionale antimafia e antiterrorismo, che su questo ha scritto proprio un libro. Voi cominciate a chiamare, avete mai sentito questa voce? Confidate veramente che alla fine soltanto Mamma Santissima ci salverà dall'ISIS? 800 24 0024. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Melog, cronache meridiane. Vi ho posto una domanda che radicalizza un tema, perché voglio partire proprio dalla percezione popolare rispetto a questa tesi, a questo teorema, che in Italia comunque saremo tranquilli dagli attacchi terroristi islamici perché c'è un così potente controllo del territorio da parte delle organizzazioni mafiosi che ci salvaguarderanno. Dottor Franco Roberti, buongiorno. Buongiorno. Il dottor Franco Roberti, ho ricordato, è procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ha scritto appena un libro per Mondadori, Il contrario della paura. Le faccio la domanda facendo momentaneamente mia questa tesi che circola comunque nel nostro paese, te la riprende nel suo libro. Ma quindi è meglio avere un paese ancora più radicalmente mafioso e con maggiori risorse, cioè con risorse che vengono anche da paesi lontani e quindi con un maggior controllo del territorio, che avere comunque degli attentati o dei morti per strada? Questa è la sintesi. Ma questo è il classico discorso che fa il gioco delle mafie da 150 anni. Cioè, tutto sommato è meglio in assenza di condizioni che possano rendere veramente, diciamo, vivibile la vita nel nostro paese, è meglio avere le mafie che in qualche modo danno lavoro, danno occupazione, ci proteggono pure dai terroristi. È una totale falsità. Anzi, la storia e la cronaca ci insegnano che mafia e terrorismo sono sempre andati a braccetto sul terreno degli affari criminali. Abbiamo infiniti esempi di terroristi, di gruppi terroristici che si sono autofinanziati con attività tipicamente mafiose, a cominciare dal traffico di stupefacenti, passando per i sequestri di persone e le estorsioni. Quindi non è vero. E d'altra parte è anche vero, e anche in questo caso la storia ce lo ricorda, che la presenza del terrorismo ha sempre fatto il gioco delle mafie. Negli anni di piombo, qui in Italia, l'attenzione dello Stato era doverosamente polarizzata dal fenomeno dall'emergenza terroristica e in qualche modo distratta dal fenomeno mafioso. E fu proprio in quegli anni che le mafie crebbero nel nostro paese, che cominciarono a diventare protagoniste nel traffico internazionale di stupefacenti. Quindi il rischio è questo, dottor Roberti, che in questo momento l'emotività generale, che comunque in qualche maniera può condizionare il controllo del cittadino sul territorio, l'adesione, il comportamento passivo-attivo, il passaggio di una cultura generalmente contro la malavita organizzata, sia talmente presa e compresa dal pericolo che viene da lontano, che tenda ad abbassare le difese, abbassare comunque quelle garanzie di tenuta personale sul fenomeno mafioso? Purtroppo sì, questo è il rischio che riguarda le mafie come, come dire, a un salvagente o comunque a una difesa contro il terrorismo. Questo ovviamente sarebbe pazzesco e io non voglio neanche pensarlo. Però il rischio c'è, nel senso che si comincia veramente a dire con estrema superficializzazione, come lei ha già giustamente fatto notare, che tutto sommato sono le mafie che ci proteggono dal terrorismo. Sentiamo Pierluigi. Pierluigi, buongiorno. Primo ascoltatore, 800240024. Oggi avete l'occasione di avere un personaggio che è ai vertici dei nostri ordinamenti nazionali nel controllo, nell'attenzione, nello studio rispetto al fenomeno di cui stiamo parlando. Approfittate questa occasione. Pierluigi. Allora, all'epoca delle Brigate Rosse io lavoravo all'Italsider di Taranto, e all'Italsider di Taranto, nonostante fosse uno dei più grossi insediamenti industriali d'Italia, le Brigate Rosse non hanno mai avuto modo di sfondare, perché avevano contro quelle che si chiamano normalmente organizzazioni malavitose, e le quali controllano veramente lo Stato italiano. Sta cadendo la telefonata, comunque la domanda è chiara, la giro al dottor Franco Berti. È un episodio diverso, dice, ai tempi dell'Italsider, ai tempi che le Brigate Rosse cercavano di entrare nelle fabbriche, nelle aziende per fare proseliti, allora fece quadrato la malavita organizzata, ma allora non c'erano interessi da spartire, o sbaglio? Ma non è così, fecero quadrato i lavoratori, fecero quadrato i sindacati, fecero quadrato le organizzazioni legali nel nostro paese. E mentre invece è vero che quando le Brigate Rosse hanno voluto in qualche modo insediarsi e infiltrarsi, come è successo in Campania, come è successo a Napoli, si sono immediatamente rapportate alla criminalità mafiosa. Quindi hanno le armi poi alla fine vengono da lì, i soldi facili vengono da lì. Gli affari vengono da lì e quindi i soldi vengono da lì. Quindi voglio dire, un'organizzazione terroristica che si voglia insediare in un territorio, comunque voglia operare in un certo territorio, deve venire a patti con la criminalità organizzata, ma questo la criminalità organizzata lo accetta ben volentieri, perché almeno nel caso di Napoli e della nuova capola organizzata avviene esattamente questo. Non so se lei ha visto un servizio fotografico, dottor Roberti, l'ho visto e mi ha colpito, anche perché le iconografie, le ritualità, le parole di passo funzionano. È dei giovani appartenenti, manovalanza della camorra organizzata, di quella più attiva, stanno acquisendo anche uno status esteriore per somigliare ai jihadisti. Si fanno tatuaggi islamici, lunghe barbe, hanno fatto loro quel tipo anche di rappresentanza di persona fuori dalle leggi e disposto a tutto. Come commenta questo? Lo commento che esattamente questo è il contagio, diciamo, del radicalismo jihadista, che fa presa anche sui giovani criminali. Del resto, guardi, io ricordo che dopo il delitto d'Antona, la rivendicazione delle Brigate Rosse che responsabili del delitto d'Antona, si rapportava già fin dalla rivendicazione con le organizzazioni criminali, terroristiche, transnazionali, dicendo che bisognava in qualche modo raccordarsi per esportare, diciamo, la lotta terroristica anche, diciamo, in altri paesi. Mi fa notare un amico che conosce bene la materia, che in realtà c'è una sorta di mix culturale. Il camorrista che si fa il tatuaggio jihadista non sa che magari nel mondo islamico è proibito il tatuaggio, quindi è un controsenso totale. Ma in questi mix culturale sul terreno dei comuni attività criminali, che però apprezzano il fatto, siano persone spregiudicate che uccidono in maniera plateale. L'ISIS, lo mette anche lei nel suo libro, ha scoperto il marketing del terrorismo a riviste patinate, ottimi video promozionali pubblicitari. Le esecuzioni pubbliche e rituali fanno parte anche della nostra malavita organizzata, lo sappiamo bene. Anche la malavita organizzata ha questa, come dire, ostentazione dei delitti a fini anche di reclutamento e di proselitismo. Questo lo fa in particolare la camorra campana, ma anche in Calabria sono verificati tanti episodi di questo tipo. Quindi la comunicazione, sia pure criminale, è un fatto, diciamo, che accomuna, è un altro elemento che accomuna il terrorismo con la mafia. Lei ha fatto una dichiarazione giorni fa, ripresa da vari quotidiani, che ha fatto grande scalpore. Dice: nelle carceri italiane oltre 500 minori sono a rischio reclutamento. Lei ha guardato i numeri, ha visto che la maggioranza nei carceri minorili dei detenuti sono ragazzi comunque che appartengono al mondo dell'Islam. Dice: questo potrebbe essere un rischio. È accaduto qualcosa del genere in passato riguardo alla malavita organizzata, che in carcere sia il primo luogo di proselitismo? Assolutamente sì, e ancora una volta il mio riferimento è alla Camorra, che è il tipo di criminalità organizzata che conosco meglio. La Camorra, per esempio, la Camorra cutoliana, la NCO di Cutolo, è nata nelle carceri, e tutta l'attività di proselitismo, di reclutamento, di affiliazione è avvenuta nelle carceri, e poi dalle carceri si è propagata al territorio. Lei lo mette nel libro: Cutolo è stato sempre in carcere praticamente la sua vita, certo, e da lì comunque lavorava. Ha fondato la sua associazione in carcere, ha fatto proselitismo in carcere, ha realizzato quello che era la sua prospettiva anche di collegamento con le Brigate Rosse. A lei cosa risulta e stia accadendo rispetto a questo nelle carceri italiane? Ma guardi, oggi nelle carceri italiane c'è un controllo infinitamente superiore rispetto a quello dei tempi delle BR della Camorra di Cutolo. Oggi si fa, e lo si fa in modo effettivo, un'attività di monitoraggio dei soggetti a rischio, soprattutto per quanto riguarda i percorsi di radicalizzazione, che possono riguardare minorenni o anche maggiorenni, ovviamente, anche delinquenti comuni, cioè detenuti non già catalogati a rischio terrorismo. E quindi si fa un monitoraggio all'interno delle carceri. Naturalmente il monitoraggio poi si conclude con segnalazione all'autorità giudiziaria o comunque con interventi preventivi. Oggi si parla e si sta incominciando a realizzare anche una serie di interventi rieducativi, di recupero o comunque di prevenzione della radicalizzazione all'interno del sistema. Qualcuno dice che un sistema buono è istruire i giovani di fede islamica, cosa sia veramente l'Islam, perché c'è anche il fenomeno dei finti imam o degli imam che non sa da che parte vengono, che vanno lì, in realtà è tutt'altro il messaggio. Su questo sta prendendo qualche misura? È importante rapportarsi alle comunità islamiche, soprattutto ai dirigenti e rappresentanti delle comunità islamiche che esistono in tante città del nostro territorio nazionale, e poi naturalmente bisogna selezionare i soggetti affidabili per affidare loro questo incarico di dialogo e anche di recupero dei giovani, per far capire ai giovani gli islamici e anche quelli non islamici che però sono tentati dalla radicalizzazione che cosa è veramente l'Islam, perché l'Islam è una religione di pace nella sua realtà. Queste radicalizzazioni non appartengono al vero Islam, secondo me. Anche perché ci fa pensare poi tutti i terroristi che sono stati comunque individuati, viene in mente gli episodi del Belgio, erano tutti criminali comuni, gente che ha già compiuto dei reati comuni, quindi certo, ben conosciuti, non erano che improvvisamente si erano messi sulla via del terrorismo, era gente già conosciuta, quindi è accaduta questa sorta di osmosi. Il radicalismo islamista è, come dire, si propone ai tanti giovani emarginati, rassegnati, che sono stati detenuti, si propone come un'alternativa di vita, quindi come una tentazione per recuperare un senso alla propria esistenza, un senso ovviamente sbagliato, un senso al di fuori della realtà, ma comunque un senso. Certo che l'alternativa di vita sia la promessa di una vita eterna. Beh, sai, se per me comincia, ma devi anche rapportarti a chi ascolta. Certo, gente che non ha nulla e pensa, c'è almeno gente che non ha nulla da perdere. È chiaro. E che pensa di potersi rifare una vita, diciamo, anche come martire islamista. Magari qualcuno si... Diciamo c'è anche un tornaconto economico, in fondo le famiglie poi in qualche maniera sono garantite, perché di soldi ne girano da quelle parti, non è che non girino soldi. Molto spesso questi giovani, che hanno anche un passato di criminalità comune, vengono da famiglie assolutamente integrate e anzi diciamo questi poi percorsi di radicalizzazione sono anche un modo per ribellarsi all'ambiente familiare, ai propri genitori, sono una forma di ribellione ai genitori. Ci fermiamo un istante con il dottor Franco Roberti, dobbiamo dare le informazioni alla borsa, riprendiamo tra poco. 800 24 00 24, cosa ne pensate di questa idea che noi siamo salvi comunque dal terrorismo perché ci abbiamo la mafia? Vi sembra ancora possibile? JP Morgan Asset Management vi presenta l'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Melog, cronache meridiane. Questa mattina cerchiamo di sfatare una voce che circola per il nostro territorio in maniera diffusa, in maniera non senza riflessione dietro, che in realtà noi siamo liberi dall'idea che possa esserci un terrorismo violento, attivo, islamico nel nostro territorio, perché il nostro territorio, per fortuna, è controllato dalla malavita organizzata. Come se la malavita organizzata, come se le mafie potessero liberarci da qualcosa. Organizzazioni che vivono, sono strutturate proprio nel limitare le nostre libertà, nel sostituirsi alla nostra possibilità di essere liberi. Pensate al pizzo, pensate alle estorsioni, pensate alle gare d'appalto truccate, pensate al controllo sulla politica. Ne parliamo con un personaggio che comunque ai vertici di chi studia e in qualche maniera contrasta questo fenomeno, che è il dottor Franco Roberti, che è procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha scritto un libro su questo, Il contrario della paura, che è uscito proprio da poco per Mondadori. Allora, dottor Franco Roberti, prima di sentire altre persone del nostro pubblico, lei nel suo libro cita un acronimo che avete coniato voi investigatori negli anni 90, che era CAP, era Camorra Affari e Politica, era un trinomio indissolubile che muoveva comunque il controllo del territorio. È possibile in un futuro, anche se non proprio immediato, riconiare un acronimo IAP, cioè ISIS Affari e Politica, nel nostro paese? No, questo non credo. Io penso che l'ISIS, che già sta subendo colpi molto duri nei territori che occupa, sarà prima o poi sconfitta come formazione terroristica. Resterà purtroppo il fenomeno del terrorismo internazionale. Io non credo che i terroristi arriveranno mai nel nostro paese, ne sono assolutamente certo, anche perché sul piano dell'investigazione giudiziaria e soprattutto della cooperazione internazionale stiamo facendo dei passi in avanti significativi. Quindi voglio dire, la risposta giudiziaria al fenomeno del terrorismo internazionale c'è. Sicuramente può non essere sufficiente, però è quello che possiamo fare e che stiamo facendo. Non credo che, diciamo, che ci potrebbe essere un nuovo acronimo del tipo che lei dice. Diciamo che questo, diciamo, lo dite voi, le cosiddette cellule dormienti, per usare un termine forse appartenente ad altri tipi di terrorismo, ci sono. Il problema è che nessuno gli dia l'ok perché si accendano, rimangono dormienti, poi magari fra qualche tempo penseranno ad altro piuttosto che immolarsi per l'idea. Questo è forse l'idea, che il fatto che non ci siano persone che potenzialmente potrebbero essere nel nostro paese terroristi, questo forse magari è da verificare. Ogni giorno, che non ci siano soggetti a rischio, o se ci sono, diciamo, di prevenirne la radicalizzazione e poi di individuare potenziali cellule terroristiche. Il lavoro investigativo dei servizi di intelligence, delle forze di polizia e della magistratura, che coordina l'attività delle forze di polizia, è esattamente questo, è quello che facciamo tutti i giorni. Di questo direi che i nostri i connazionali devono essere assolutamente certi che si sta facendo tutto ciò che si può fare e tutto ciò che si deve fare. Sicuramente il rischio rimane, è ovvio, non è eliminabile in toto, però si fa tutto quello che è giusto e necessario fare. Quindi diciamo che poi la nostra situazione, per fortuna, non è ancora, e poi spiegherò perché dico ancora, quella della Francia o del Belgio. No, ce lo dica subito, così sappiamo perché. Lo dico subito, perché non abbiamo, diciamo, nella nostra realtà, nelle varie realtà sociali, in cui pure ci sono importanti insediamenti di etnie musulmane, di religione musulmana, non abbiamo ancora, diciamo, questi giovani di seconda generazione che abbiano, diciamo, un pedigree tale da far ipotizzare una presenza massiccia di soggetti di questo tipo nel nostro territorio nazionale. Sono troppo giovani, ancora fanno le scuole medie e le elementari. Però bisogna per questo intervenire, si può intervenire tempestivamente per prevenire la radicalizzazione. Bisogna agire sui giovani, sui giovanissimi. Il fatto che l'Italia sia un posto in cui facilmente comunque possono passare armi, si possono trovare armi, quindi potrebbe essere, se non un territorio di operazione, un territorio in cui ci si ferma per organizzare la logistica. Questo è un altro dato. Sì, anche perché noi è un'altra voce da bar, però lei deve o confermarmelo o smentirmelo. Sì, noi siamo territorio di transito e dobbiamo anche tener conto sempre dell'area balcanica, a cui dal punto di vista investigativo dedichiamo grande attenzione e diciamo, e anche diamo molto spazio alla collaborazione con i paesi balcanici, perché da lì possono arrivare non solo soggetti a rischio terrorismo, ma anche carichi di armi e di esplosivi. Sentiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno, ascoltatore. Sì, buongiorno a lei. L'ascolto. La mia visione non è come la sua, nel senso che io non penso che la mafia ci aiuterà dall'ISIS, ma... No, io non lo penso nemmeno io, è il paradosso, dico... Che è il paradosso, ma più che il paradosso, secondo me, da come la vedo io, organizzazioni criminali in Italia, organizzazione criminale l'ISIS, si sono accordati e secondo me l'Italia è appunto un territorio di passaggio, di riposo, di qualche cosa del genere. Secondo lei ISIS e tutte le mafie che ci sono in Italia non si stanno scambiando? Lei dice un accordo di cartello, non mettiamo bombe ma facciamo i nostri affari. Si fanno i loro affari, si scambiano droga, si scambiano persone, si scambia del resto dall'Albania all'Italia in quanto ci si arriva via mare. Dottor Franco Roberti, questa è una voce che girava anche ai tempi di terrorismo straniero che variamente girava nel nostro paese. Cioè, l'Italia viene considerata come un paese ospedale di transito, non succede nulla perché in Italia ci sono, diciamo, delle caratteristiche in cui la logistica può essere molto più favorevole che in altri paesi. Corrisponde a qualche realtà quello che dice sì, il nostro scopo? Corrisponde a qualche realtà. In effetti nei primi anni 2000 noi ci siamo occupati di cellule, anche di gruppi di sostegno logistico al terrorismo internazionale che operavano nel nostro paese. Però bisogna anche considerare che abbiamo avuto nei lontanissimi anni 80 un attentato terroristico a Napoli che si richiamava, fu fatto da alcuni da un gruppo di giapponesi. Ah, nell'88, lo cita nel suo libro, il primo attacco jihadista in Italia. San Marco, queste 5 morti, oltre 20 feriti graves. Nessuno lo ricorda, ce lo ricorda? Un attentato terroristico che nessuno ricorda, ma fu all'insegna del radicalismo jihadista, sia pure fatto da giapponesi. Ed era contro il circolo ricreativo americano che aveva sede proprio a Calata San Marco a Napoli. Fu un attentato terroristico in piena regola, con morti e feriti, che purtroppo nessuno ricorda, e che purtroppo diciamo, non fu colto come spunto per avviare fin da allora un approfondimento su questo tema e su questa grande sfida del terrorismo internazionale, di cui già allora c'erano i segni, non solo questo. È un'automobile imbottita da 30 kg di esplosivo, lei scrive nel suo libro, fu una cosa clamorosa. Certo. E nessuno valutò a quel tempo che potevano essere dei segnali di qualcosa che stava cambiando. Purtroppo fu proprio così. Sentiamo Alessandro. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Volevo chiedere al procuratore se è vero che il sistema di intelligence italiano è migliore rispetto a quello di altri paesi europei e perché. Ringrazio e ascolto il radio. Certo, è un po' come chiedere all'oste se è buono il vino. Comunque... No, dicevo, bene. Un po' come chiedere all'oste se è buono il vino. Chiede a lei se è vero che il nostro sistema di intelligence sia tra i migliori del mondo. Guardi, io non so se sia tra i migliori del mondo. So che l'intelligence italiana in questo frangente, in questo scenario, si muove molto bene. Ma so soprattutto che condividiamo con l'intelligence, con le forze di polizia e con diciamo, una parte della magistratura che si occupa di queste cose, la cultura del coordinamento investigativo e dello scambio informativo, la condivisione delle conoscenze che è fondamentale nel contrasto al terrorismo come nel contrasto alle mafie, ma nel contrasto al terrorismo è, se posso dire, ancora più importante. È quella che è un po' mancata fra Francia e Belgio, di cui si diceva. È quella che è un po' mancata, bisogna purtroppo essere consapevoli di questo e ovviamente per rimediare poi anche agli errori del passato. Dobbiamo condividere tutte le informazioni, però una volta che condividiamo tutto poi dobbiamo coordinarci per stabilire chi procede come. E questo diciamo è un problema serio che noi italiani abbiamo imparato dalla grande scuola di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, di questi magistrati che coltivavano fin dagli anni 80 del secolo scorso questa cultura del coordinamento tra gli uffici. E noi l'abbiamo imparata da loro, cerchiamo di metterla in atto alla Procura Nazionale, alle Procure Distrettuali, ma anche le forze di polizia e perfino i servizi di intelligence hanno in qualche modo, come dire, abbandonato le gelosie che una volta caratterizzavano le attività delle informative e in qualche modo diciamo riescono a condividere. Abbiamo un organismo apposito in Italia che forse altri paesi non hanno ed è il cosiddetto CASA, che è un acronimo che significa Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, in cui ci sono le forze di polizia e i servizi di intelligence che scambiano costantemente i dati e stabiliscono anche, diciamo, attività coordinate. Lei mi ha dato una fulminazione, procuratore Franco Roberti, sul tempo che passa. Hanno detto gli anni Ottanta del secolo scorso. È vero, appunto. È il secolo scorso. Stiamo ragionando su qualcosa. Sono passati oltre 30 anni. No, no, ma ha perfettamente ragione. Non ci facciamo caso che la storia in questo momento corre veloce e noi ne siamo protagonisti, ma non ce ne siamo resi conto. Ci fermiamo un istante, fra un secondo riprendiamo. Melog. Cronache meridiane. Stiamo parlando del rapporto tra mafia e terrorismo islamico, ne parliamo con Franco Roberti, che è procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e autore del libro Il contrario della paura Mondadori, che ci sta spiegando come questa sorta di soluzione facile che circola nel nostro paese, che alla fine ci salverà la mafia dei terroristi islamici, è esattamente, non solo è sbagliata, ma è esattamente il contrario. Il terrorismo islamico rischia di stringere un patto con le mafie organizzate, un patto poi finalizzato al controllo del territorio, all'uccisione delle nostre libertà e al continuo sfruttamento illegale delle nostre risorse. C'è, fra le tante voci che circolano, una in modo particolare allarmato molti italiani prossimi a programmare le vacanze, e ce la espone Enrico. Enrico, buongiorno. Pronto? Sì, Enrico. Buongiorno. Cosa la preoccupa? Ma a me preoccupa il fatto che, siccome in Italia la nostra ricchezza sono il mare e le spiagge, io non so se quel signore lì che parla ha ragione. Beh, quel signore è procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Va bene, per me è un signore comunque. Sì, non è che sia un signore non lo mettiamo in dubbio. Va bene. So, se uno è un signore ricopre questi posti, se non è un signore è difficile. Comunque, prego. Va bene, comunque, quello che voglio dire io è che, secondo me, lanciare un allarme dicendo che tutte le signore che sono in spiaggia quando vedono passare o comprare possa essere uno che ha delle bombe, è un bel, diciamo, inizio stagione per chi si occupa di turismo. Insomma, questo ci tenevo a dirlo. Bisogna avere delle certezze per dire certe cose. Lei è un operatore turistico della Riviera Romagnola, immagino. No, io faccio i gioiellieri. Ecco, quindi rischia altri tipi di rischio. Comunque ho capito. Io ho altri tipi di rischio, però secondo me, visto che ha capito anch'io, praticamente a che fare con il turismo, e già soffriamo perché io ho degli investimenti a Lampedusa, ha capito? E già Lampedusa in questi anni è stata martoriata col fatto che adesso, malauguratamente, col fatto che arrivano dappertutto e non arrivano solo a Lampedusa. E non, non vanno a comprare gioielli, chiaro, quelli che arrivano. No, quelli che arrivano, ma io il negozio ce l'ho a Modena, non ce l'ho a Lampedusa, capito? Fermo un attimo. Allora, dottor Franco Roberti, è uscita questa voce, come diciamo indiscrezione giornalistica, che c'è un potenziale rischio che i cosiddetti Vucumpra nelle nostre spiagge potrebbero trasformarsi in terroristi. Ci sono delle basi serie investigative su questo allarme? Assolutamente no. Proprio è una vox populi che alimenta molte volte anche sì, l'intolleranza. È la paura che alimenta, insomma, queste ipotesi che sono del tutto prive di alcun fondamento. Gli attentati nelle spiagge, però, ci sono dei precedenti, l'abbiamo visti in Tunisia. Ma non da noi, per fortuna. Non è un fenomeno, diciamo, che territorialmente in questo momento Il rischio attentato, c'è. Questo nessuno ha mai detto che in Italia non è a rischio attentato. Poi la fantasia popolare si può sbizzarrire nel formulare mille ipotesi, però voglio dire, insomma, mi sembra che è lo stesso discorso dei terroristi che arrivano con i barconi degli immigrati clandestini. Non è che i terroristi arrivino con i barconi, c'è il rischio che anche da quelli che arrivano con i barconi qualcuno possa intraprendere un percorso di radicalizzazione, ma è un altro discorso questo. Diciamo che anche in questo caso non alimentiamo le paure. Sì, ma anche in questo caso, come avviene rispetto a tanti altri campi, io sarei per fermarmi alle evidenze. Quello che abbiamo evidenza lo possiamo dire, quello di cui non abbiamo evidenza sono ipotesi. È giusto come ragionamento. Dobbiamo alimentare le paure, soprattutto cercare in qualche modo di sfruttare le paure per scopi a volte... Sì, diventa demagogia, diventa istigazione populismo, all'intolleranza, diventa, questo è chiaro. Un modo per esercitare una forma di potere sbagliato, anomalo, che è tutto, diciamo, privo di legittimazione. Claudia, buongiorno. Abbassi, sì, la radio, abbassi la radio. Sì, si è spenta. Io ho letto un articolo di Roberto Saviano che sostiene che in realtà l'ISIS e queste cellule si muovono esattamente come i gruppi mafiosi a livello di omertà, a livello di protezione tra loro, e questa credo che sia un'evidenza. Ma io avevo una domanda al magistrato: come fa l'investigazione a muoversi ora con i social network, sui quali pare che si muovano di fatto tutte le informazioni di queste cellule, e a fronte appunto del segreto che c'è, Facebook eccetera, praticamente non permettono l'accesso alle informazioni che invece sono possibili con le intercettazioni? Beh, questo è quello che leggiamo sui giornali quando vogliamo leggere articoli ameni. È chiaro che avranno strumenti per entrare laddove possa avvenire qualcosa di pericoloso. Comunque ci risponde il dottor Franco Roberti. Le indagini si fanno anche sul web, anche sui social network, le indagini si fanno dappertutto, c'è la possibilità e c'è il rischio di poter, diciamo, trovare o scoprire attività di proselitismo, di radicalizzazione. Non c'è dubbio che è molto importante, ecco, questa precisazione. Noi abbiamo strumenti investigativi tali da poter investigare anche nel campo dell'informatica, soprattutto direi a questo punto nel campo dell'informatica. È chiaro che esistono accordi internazionali, non è che noi mettiamo la privacy su Facebook e poi questo fa sì che nessuno possa mettere il naso in quelle cose, se c'è sospetto noi compiamo reati. Tranquillizzatevi, tutto quello che fate per via informatica comunque è osservabile in via legale, in via ufficiale, da parte di chi è preposto alla nostra sicurezza, è osservabile anche da chi vuole osservarlo in maniera illegale. C'è una cosa che mi ha colpito nel suo libro, lei dice che si è accorto veramente cosa fosse la malavita organizzata al tempo del terremoto in Irpinia, proprio nel suo paese, nella sua terra, e questo fa capire che laddove c'è un disastro, laddove c'è paura, laddove c'è sconforto, è il terreno più fertile dove possa attecchire. Sì, io faccio riferimento al terremoto di Sant'Angelo dei Lombardi, dopo che fu purtroppo avvenne il terremoto, capimmo che una grande parte, soprattutto nelle forniture di calcestruzzo per la costruzione dei palazzi che poi erano di giù la notte del 23 novembre, l'aveva avuta la camorra, un certo gruppo di camorra nella fornitura del calcestruzzo. Poi dopo, successivamente, avemmo occasione di indagare, di accertare infiltrazioni alla camorra anche negli appalti della ricostruzione post terremoto. Diciamo che... Questo, diciamo, ci dette un primo staccato di quello che era la camorra imprenditrice, la infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, la depredazione di denaro pubblico a scapito della collettività così tanto martoriata. La notizia degli ambulanti probabili terroristi era stato da un giornale straniero, Bild, ma era stato subito smentito anche dai nostri investigatori. C'era addirittura la foto di una spiaggia italiana con i bagnanti presa sotto mira, con il mirino che inquadrava i bagnanti. Sono, come diceva giustamente il procuratore, sono situazioni che in realtà servono più a dettare scompiglio. Ci sono 30 secondi, Gianluca, solo una battuta, devi dire qualcosa. 30 secondi. Sì, buongiorno. Io, insomma, senza gettare ipotesi strampalate, essendo un ex militare, avendo operato anche in teatri di guerra e conosco anche come vengono svolte in Italia determinate indagini dal punto di vista militare. Però dica che c'è la sigla. Ecco, dicevo che la capillarità del territorio, il territorio non è coperto capillarmente, tutto qua. È coperto per quanto può essere coperto, non può esserci un vigile ad ogni angolo, come chiedono. Ringrazio il procuratore Franco Roberti, ricordo Il contrario della paura, Mondadori.